America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Now we will again attempt to commit the remaining resources needed to secure the border, modernize and streamline our current immigration system, and create a tough but fair path to citizenship for those here illegally. Il senatore John McCain annuncia ieri a Washington un compromesso al Senato fra 8 senatori, 4 democratici, 4 repubblicani. L'altro capofila è Charles Schumer, il senatore democratico di New York. Un compromesso, dicevo, per cominciare a lavorare a un progetto di legge per riformare l'immigrazione. Ecco, è uno di quegli ostacoli americani che così si presentano ogni tot anni e poi non vengono mai risolti. Ci provò Bill Clinton, ci provò George W. Bush, poi alla fine succedeva sempre qualcosa e non si riusciva mai a risolvere questo problema che si è fatto negli anni sempre più complesso. She looks somehow different. I do. And I think she is up to something. I am. I do. I am. She talks like a parrot. What is going on with you, Maria? I feel pretty. Oh, so pretty. I feel pretty and witty and gay. And I pity any girl who's in me today. West Side Story. Beh, erano altri tempi, gli anni 60, quando c'era la prima immigrazione latinoamericana. La storia di West Side Story molti di voi la conosceranno, ma è comunque un musical dove ci sono due protagonisti: Maria, una ragazza portoricana cresciuta in questo clan di portoricani, c'è una gang che è antagonista di una gang invece di americani anglosassoni. Tony faceva parte di questa gang, Tony e Maria si innamorano. Ma avete sentito prima ancora di questa canzone, una delle più belle del musical, come c'erano queste ragazze che parlavano fra di loro. Se le vedete nel musical sono vestite in modo molto per bene, sono sicuramente immigrate in modo legale, è un esempio di scontro fra culture, ma anche un esempio di una immigrazione legale, un'immigrazione che ha una sua definizione culturale. Porto Rico tra l'altro poi ha degli accordi speciali con gli Stati Uniti. Non è l'immigrazione degli ultimi 20-30 anni, e cioè è un'immigrazione che passa i confini in modo pericolosissimo, un'immigrazione decisamente illegale. Oggi la popolazione complessiva dei latinoamericani negli Stati Uniti è di 51 milioni di persone, 51 milioni di cittadini di origine ispanica su una popolazione di 309 milioni di persone. E ci sono ormai 12 milioni, si continua a dire oltre 11 milioni, di immigrati illegali negli Stati Uniti. Da una parte c'è il côté così romantico che riconosciamo appunto in un'altra canzone di West Side Story, Maria. Maria, Maria, Maria, Maria, I just met a girl named Maria. Oggi la situazione è molto diversa, ci sono dei casi, ma centinaia di casi, migliaia di casi che sono strappa lacrime. Storia incredibile, c'è tra l'altro un sito che raccoglie tutte queste storie davvero molto triste. Ve ne cito qualcuna, per esempio c'è una famiglia che è arrivata qui con visto turistico nel 2001 perché volevano raggiungere lo zio che era cittadino americano e stava qui legalmente. Un parente, non so, un fratello, un genitore può richiamare un figlio o un fratello e dargli automaticamente la cittadinanza. Quindi la madre di questa famiglia aveva il fratello qui, ha fatto la domanda per ottenere questa cittadinanza, ma la burocrazia lunghissima ci ha messo 10 anni per andare avanti. Nel frattempo, poco fa, la madre è morta di cancro e a questo punto la petizione non vale più perché era lei l'unico contatto con questo suo fratello e questa famiglia intera a questo punto deve rientrare in Messico da dove era venuta dopo 10 anni passati qui. Ma ce ne sono poi mille altri di casi di questo genere. Situazioni in cui una ragazza e un ragazzo arrivano qui, si sposano, fanno dei figli, sono entrambi immigrati illegali, i figli nascono qui e dopodiché succede qualcosa, uno di loro viene scoperto ed ecco che padre e madre vengono deportati e devono lasciare qui i loro figli di 3, 5, 7 anni, bambini piccoli, perché la legge americana riconosce i figli come americani ma non i genitori, e dunque finisce che questi figli vanno poi in un orfanotrofio. Un'altra storia: dopo 40 anni qui in America la madre di un gruppo di immigrati illegali è stata deportata 5 anni fa all'età di 75 anni, i figli nel frattempo erano nati qua e sono legalmente americani e in questo momento non possono far niente per ricongiungersi con la madre. Ecco, la situazione è difficile, è grave, perché ci sono poi frange della popolazione americana che hanno un profondo risentimento nei confronti di questi immigrati illegali. Ci sono delle resistenze fortissime a normalizzare questa situazione. We cannot forget that we are here today because the federal government has failed the American people regarding immigration policy, has failed to protect its citizens, has failed to preserve the rule of law, and has failed to secure our borders. John Brewer, governatore dell'Arizona, ha fatto polemica, dice: se siamo arrivati a questo punto è perché il governo federale ha fallito nell'affrontare il problema dell'immigrazione illegale, non è stato capace di proteggere i cittadini americani, di garantire il rispetto della legge e proteggere i confini. E dunque che ha fatto la signora Brewer? Ha dato il potere alla sua polizia di fermare chiunque per strada potesse sembrare sospetto, di chiedergli i documenti, se i documenti non c'erano, quello veniva arrestato e rispedito immediatamente a casa, cosa questa che per esempio a New York non succede assolutamente, non si chiedono i documenti, diciamo c'è una forte protezione di quelli che sono i diritti civili. Oggi parlerà Barack Obama, farà una proposta analoga, io credo, a quella del Senato, una proposta che si articola in quattro punti. Il primo, trovare un percorso per legalizzare la posizione di questi 11 milioni di immigrati. Il secondo, concedere a coloro che vengono qui a studiare e ottengono un dottorato di ricerca una carta verde, cioè un diritto di residenza, perché prima se ne dovevano andare, gran parte delle aziende americane si lamentavano perché erano persone di altissima qualità. Terzo, cercare la collaborazione delle aziende americane, le quali riceveranno un programma da parte dell'autorità federale per poter collaborare in questa direzione. Quarto, identificare categorie di mestieri che possono richiedere immigrazione e aumentare magari la quota di visti. Questi termini della proposta, vi dicevo, Barack Obama parlerà anche lui oggi. La battaglia non sarà facile, forti resistenze alla Camera Repubblicana, ma ne parleremo domani anche per capire se davvero siamo vicini a una svolta o se, come in passato, c'è il rischio che tutto cada di nuovo nel vuoto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di immigrazione, di West Side Story, direi che visto che il sogno americano sembra cominciare ad affacciarsi per questi 11-12 milioni di immigrati illegali, chiudiamo sempre tratta da West Side Story con un grandissimo classico, America. Life can be bright in America if you can fight in America. Life is alright in America if you're all white in America.